Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Il magazzino dei medicinali è un leitmotiv di dozzine di film, serie televisive e libri gialli a sfondo medico, ma è anche un luogo terribilmente reale dove si possono consumare furti e persino delitti, come ci ha ricordato di recente anche la cronaca con il caso dell'infermiera killer. Dove può capitare invece molto più semplicemente di perdere molto tempo per recuperare il flacone giusto e soprattutto dove può accadere di commettere un errore. Abbiamo cercato un po' di numeri. Secondo vari studi, gli errori di somministrazione dei farmaci avvengono più o meno nell'1,5-2% dei casi, e secondo un rapporto dell'Institute of Medicine degli Stati Uniti questo implica per i soli Stati Uniti tra i 44 e i 98 mila morti all'anno. Settima causa di morte nel paese, la somministrazione di farmaci errati. Questa sera allora andiamo al centro medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia, dove per loro fortuna si occupano per lo più di odontoiatria e chirurgia, chiamiamolo così, leggera, e dove tuttavia da poco è entrato in funzione un magazzino intelligente, in gergo si parla di smart drawer, il cui scopo è proprio azzerare, insomma ridurre al minimo gli errori. Ce ne parla l'amministratore delegato del centro Spallanzani, il dottor Roberto Gallosti. Buonasera. Buonasera. Senta, allora, intanto partiamo dagli errori, perché spesso non si ha una percezione così chiara anche di tutta quella catena di eventi che portano dal medico che visita il paziente e prescrive un farmaco al momento in cui gli viene poi somministrato. Beh, l'errore può essere, diciamo così, quello che classicamente una persona può pensare: mi sbagliano il farmaco, me ne danno uno al posto di un altro, oppure mi danno un farmaco a cui io sono allergico, o non per ultimo, non mi danno il farmaco che invece mi serve. Ecco, ma l'errore può capitare perché io scrivo il nome nella trascrizione e l'infermiere lo capisce male, può essere che il paziente abbia un cognome simile a quello di un altro, o allo stesso cognome, addirittura un caso di omonimia. Ci sono farmaci che hanno nomi simili e un'apparenza simile, per cui è facile sbagliarli. Si può sbagliare il dosaggio, può essere dato prima, può essere dato dopo. Cioè, ci sono tutta una serie di punti dove può avvenire un piccolo errore e portare a una somministrazione sbagliata. E qui voi avete appunto scelto una soluzione che è di tipo tecnologico. Come funziona? Funziona in questo modo. Provo, diciamo così, a descriverla. Immaginatevi un armadio di cassetti, come i vecchi archivi dei notai. Perfetto. Per intenderci, no? Armadi che sono in rete, quindi sono ispezionabili da qualsiasi computer. Bene, nella nostra realtà li abbiamo posizionati in tre piani. Facciamo un esempio per la procedura e come viene applicata. L'indomani abbiamo da affrontare un intervento, no? Questo intervento X standardizzato ha bisogno di una siringa, dei pacchi sterili di garze e di un antibiotico. Bene, allora, l'operatore nella cartella clinica ha un'indicazione e dice: vai nell'armadio 2 al piano 3, lì trovi quello che devi prelevare. Si posiziona davanti al computer della sezione dell'armadio, si identifica con un chip a bracciale oppure sì, con un badge, e l'operatore in questo modo avvia una procedura che richiede l'apertura del cassetto dove è posizionato quel farmaco, e oltre all'apertura del cassetto c'è proprio un laser che ne indica la posizione effettiva. Perfetto, quindi insomma vengono sbloccati solo i cassetti di questo armadio robotizzato, chiamiamolo così, che contengono sì, quello che serve al paziente, e c'è addirittura un laser che dall'altro illumina, come i puntatori dei killer professionisti, illumina il farmaco, la scatoletta di farmaco che fisicamente l'operatore deve prelevare, corretto? Perfetto, ecco, proprio in questo modo. Non solo, anzi, un intervento X che deve avere una siringa, un pacco di carta sterile, no? Di garze sterili e un antibiotico, ovviamente semplicizzo per farvi capire, sì, come se fosse una ricetta di una pasta, no? Da cucinare, no? Sì, con tre ingredienti. In quel caso l'operatore prepara l'intervento per il giorno dopo, si aprono i cassetti dei vari componenti, quindi della parte protesica, tesica piuttosto che della parte dei materiali, no? Guanti, bisturi. Ma se, diciamo così, quell'antibiotico prescritto per quell'intervento risulta essere allergico al cliente, l'armadio dei farmaci è bloccato. Sì. Cioè, è il cliente che è allergico all'antibiotico, più probabilmente, e non l'antibiotico al cliente. Ma non importa, abbiamo capito perfettamente, insomma. Certo, cioè, quindi c'è anche questo tipo di controllo, perché questo sistema fa un controllo incrociato tra la richiesta del medico e quello che sa sul paziente. Possiamo proprio metterla così. Proprio così, e induce l'operatore a un'azione correttiva. Il medico a prescrivere un antibiotico alternativo, o nel caso in cui non ci sia un medico che possa eseguire la prescrizione in fase di preparazione della sala operatoria, blocca completamente l'iter. Chiarissimo. Senta, tutto questo serve naturalmente a proteggere gli utenti del sistema sanitario da errori del tutto inconsapevoli, involontari. Come abbiamo sentito di recente, ci sono anche scenari meno incolpevoli. Abbiamo sentito, vabbè, il caso estremo addirittura di qualcuno che decide, insomma, di fare il giustiziere. Però molto più frequenti, immagino, possono essere casi di furti, insomma, negli ospedali, no? Ecco, questi sistemi possono dare una risposta anche a questo tipo di problemi? Beh, sì, assolutamente sì. Tutti i passaggi che vengono eseguiti in entrata e in uscita alimentano un database che, nel momento in cui c'è un bisogno, è esportabile. Sono esportabili tutti i log dei vari movimenti che vengono tracciati sia per operatore che per tempo, la tal data, la tal ora, e per il tal cliente paziente. Anche perché, se ho ben capito, questi armadi sanno che cosa contengono. Immaginiamo che uno porti via qualcosa di diverso da quello che avrebbe dovuto portare via. In realtà l'armadio in qualche modo se ne accorge. Se ne accorge, e soprattutto se parliamo di furto, riesce a eccepire il fatto che è stato prelevato un farmaco non dedicato a un cliente. Ecco, insomma, c'è da augurarsi che sistemi più o meno di questo tipo possano diffondersi insomma, più largamente. Immagino che poi questo liberi anche tempo, al di là della riduzione degli errori, lasci al personale sanitario più tempo da dedicare ad altre cose che non sia, no, rovistare nell'armadio dei farmaci. Beh, qua mi viene spontaneo, diciamo così, un altro esempio che noi abbiamo nel reparto dell'odontoiatria, no? Dei dentisti. Lì gli interventi sono tanti, sono più di 5.000 interventi l'anno, e quindi l'odontotecnico che fabbrica il dente, il dentista che deve utilizzarlo per poi impiantarlo, dov'è quel dente di quella persona? È un tempo rilevante certo. Non si è organizzati, e quindi questa è stata un'ottima soluzione per rendere sinergico questo momento tra i due attori. E certo, perché il laser riesce a beccare anche il dente, non solo, lei dice, non solo la scatoletta del farmaco. Va bene, grazie dottor Roberto Gallosti. Grazie a voi, buonasera a tutti. Va bene, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani. A voi tutti buona serata.